Episodio 16. 11-12. Ascolta la conversazione. Niente, io ti voglio dire una cosa. Tutte le strade portano a Roma. A te che strada ti ha portato a Roma? Allora, la strada che porta a Roma, diciamo, non quella che ti ci fa rimanere, è la strada che uno vuole uscire dalla sua piccola città, dalla sua cosa, e vuole andare in una città che sia di una dimensione che non è quella quella a cui uno era abituato, ovvero la piccola città italiana di provincia. Ma tu avevi iniziato a Venezia a fare architettura, no? Sì. Ma Venezia è più o meno la stessa cosa, nel senso che c'è un grande flusso turistico, una cosa, però alla fine il circoletto è sempre quello, appunto, del baretto, degli amici, dell'ombra o del tayut, quello che sia, però è sempre questa cosa così. Invece Che cos'è il tayut? Il tayut è il bicchiere di vino in compagnia, come l'ombra a Venezia, l'ombra è la stessa cosa, lo stesso concetto, il bicchiere di vino in compagnia, ecco. Mentre uno si aspetta in una città più grande, che poi forse Roma non lo è, però uno si aspetta che sia qualche cosa di più così, di più metropolitano, di diverso da questa cosa. Ecco. Senti, ma tu sei venuto a Roma proprio per fare architettura, o no? Sì, io sono venuto a Roma per fare architettura, però con una passione per il cinema all'inizio, e perciò per quello forse è caduta anche la scelta su Roma, non su Milano, ad esempio. E il tuo quartiere ideale a Roma? Il mio quartiere ideale a Roma, ci sono tanti quartieri, magari uno ha qualche aspetto migliore, diciamo, per dirne uno o due, possono essere, non so, alcune parti del centro, comunque tutto dove sommato. Dove vorresti vivere, diciamo, dove tu vorresti vivere, abitare, come se dovessi abitare, sì, se dovessi abitare in centro, diciamo, Roma città, alcune parti del centro proprio, cioè, quelle meno turistiche, però quelle più caratteristiche forse, o se no anche tipo questi quartieri che si sentono, poi bisognerebbe provare, la Garbatella, Monteverde, non lo so, ecco. E se tu potessi fare qualcosa, tipo distruggere e rifare a Roma, cosa distruggeresti e cosa rifaresti? Allora, probabilmente l'ho sempre detto, anche da tanti anni, che distruggerei l'altare della patria. Tu sei una di quelli. Sì, proprio per andare sul banale. Però lo distruggerei in effetti, perché non c'entra proprio niente, anche se vedo che ha assunto qualche valore di sacralità per questa Italia così assurda, anche per recenti fatti. Non so, c'è un qualcosa che alla fine questo posto fa. Io vorrei fare una cosa, vorrei prendere 100 celle e rifargli un piano del colore, cioè vorrei trasformare tutto il paese, giusto per dire paese, ho detto paese ed è giusto dire paese perché è un paese. Perché è un paese? Perché a Centocelle tu sei nel traffico e davanti ti si ferma la macchina che incrocia l'altra macchina, incontra l'amico, lo zio, il cugino e si mette a chiacchierare fregandosi di tutti quelli che stanno dietro in coda. Cioè c'è proprio questa, si conoscono, c'è un quartiere, c'è proprio una cosa da paese a Centocelle. E ci rifarei un piano del colore, ovvero tutte queste palazzine, mezze abusive o mezze no, però non una situazione disastrata come, non so, Borgate sulla Casilina. Comunque un tessuto, uno si riconosce che io sono di Centocelle e perciò anche il tessuto non è così male, anche pur non essendo assolutamente una qualità architettonica, però ci rifarei un piano del colore, cioè un rifacimento dei recinti, intonaci, facciate, prendendo a spunto ad esempio Anderwasser a Vienna, sì. Non caricandolo fino a quegli estremi, però connotando un quartiere intero con un'idea di colore, di stile, di allegria, di cosa. E quello mi sembrerebbe un quartiere interessante per fare questo.